È di nuova emergenza maltempo sud, centinaia di evacuati nel Salernitano e a Roma si cercano i soldi da destinare al Veneto. Il crollo di Pompei, l'opposizione chiede le dimissioni di Bondi che si difende, non merito di andarmene. Raddoppiano i morti per cocaina in Europa, l'Italia resta in testa alla classifica, un consumatore su quattro ha più di 40 anni. Amara conclusione della conferenza sulla famiglia, in tre casi su quattro restano le donne ad accollarsi la cura di casa e bambini. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il Veneto dunque conta i danni dell'alluvione, a Roma riunioni per quantificare i danni e soprattutto quantificare gli aiuti possibili. Intanto continua a piovere e l'emergenza si sposta a sud, in particolare in Campania. Allora ci colleghiamo in diretta con Paolo Picone. Sì, buongiorno. Disagi in tutta la Campania per il maltempo, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Nel napoletano sono segnalati diversi allagamenti e smottamenti. Critica la situazione alla Policlinico Nuovo di Napoli, dove decine di pazienti della struttura segnalano disagi e paralisi delle attività ospedaliere. Nel Salernitano comunque la situazione è più difficile, qui sono straripati Piumisele, Tanagro e Sarno con il cedimento degli argini in località Loreto Ortolonga, allagamenti sul tratto Salernitano della 3. Poco fa sono state salvate dai vigili del fuoco le tre persone aggrappate a un tronco di un albero sul fiume Sele, sono andato per mettersi in salvo, portate in ospedale, non sono in cattive condizioni, sono giudicate buone le loro condizioni di salute. Circa 300 le persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni nel comune di Capaccio Pessum in provincia di Salerno a causa sempre dello straripamento del fiume Selo, come ci conferma il responsabile della protezione civile di Salerno, l'architetto Francesco Guida, che andiamo ad ascoltare e poi linea allo studio. Nella zona di Capaccio stiamo facendo evacuare quasi 300 famiglie. Il centro previsionale della regione Campania aveva preannunciato questo maltempo che è un po' diffuso su tutta l'Italia. Diciamo che a questo si è problema Sele, si è aggiunto la difficoltà maltempo mare con venti di libeccio che hanno spinto sulla costa e quindi hanno imbottigliato anche il normale deflusso del fiume Sele che aumentava la sua portata. Grazie dunque a Paolo Picone per averci fatto il punto su questa nuova emergenza in Campania e come dicevamo in apertura, intanto a Roma incontri per fare il punto sull'alluvione in Veneto. Andrea Viali. Sì, Piara, per le zone alluvionate del Veneto si parla di aiuti per circa 1 miliardo di euro da parte dello Stato, sono risorse che a quanto apprendiamo dovrebbero essere reperite più che altro all'interno della finanziaria, ma c'è anche la possibilità, sembra, di attingere a fondi europei. Di questo si doveva ragionare stamattina in un vertice a Palazzo Chigi fra il Premier Berlusconi, il Ministro dell'Economia Tremonti, il Capo della Protezione Civile Bertolaso e il Governatore del Veneto Zaia. Il vertice in realtà non c'è stato, ma tra poco sulla questione potrebbero esserci delle comunicazioni, forse una conferenza stampa, non sappiamo ancora, del Presidente del Consiglio. In mattinata comunque nella sede della Protezione Civile qui a Roma, Zaia e Bertolaso hanno fatto il punto sulla situazione nelle zone alluvionate, situazione sulla quale nel pomeriggio Bertolaso riferirà prima alla Camera e poi al Senato, probabilmente sarà il suo ultimo impegno istituzionale visto che domani dovrebbe andare in pensione. Per ora da Palazzo Chigi è tutto, Piera. Grazie ad Andrea Viali. Tremonti alla ricerca di soldi da destinare al Veneto, Tremonti alla ricerca dei 2 miliardi che servono per soddisfare le richieste dei vari ministeri. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è proprio così. L'obiettivo di Tremonti è quello di conciliare le tante sollecitazioni ricevute dai ministeri con la sostenibilità dei conti ed è proprio questo il problema, lo ha spiegato lo stesso Ministro dell'Economia ai capigruppo della maggioranza. Le richieste arrivano a 7 miliardi di euro, la disponibilità è per 5, da qui la ricerca delle coperture, i 2 miliardi che mancano potrebbero arrivare dalla lotta all'evasione fiscale e dal recupero delle somme non spese dalla pubblica amministrazione. Le somme già individuate riguardano invece 1,5 miliardi che arriverebbero da un fondo presso la Presidenza del Consiglio, 1 miliardo di entrate dai giochi e 2,5 miliardi dalle aste delle frequenze, soldi che saranno impiegati per l'università, per gli ammortizzatori sociali, per il rifinanziamento delle missioni internazionali, verrebbe inoltre ridotto di 1 miliardo il taglio già previsto per comuni e regioni. L'attenzione dunque è tutta sulla Commissione Bilancio, sull'arrivo nel pomeriggio qui alla Camera del maxi emendamento alla legge di stabilità che introduce le misure per lo sviluppo. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. L'Italia dunque in difficoltà per la pioggia. In Veneto come in Campania. Stamattina alla Camera le parole del ministro dei beni culturali Sandro Bondi sui crolli a Pompei. Raffaella Calandra. La difesa del ministro, il contrattacco dell'opposizione e le critiche dei finiani. Il crollo della Scuola Armatorum di Pompei fa traballare la poltrona del ministro dei beni culturali, che questa mattina ha riferito alla Camera e domani sarà al Senato. Se avessi avuto responsabilità mi sarei dimesso, assicura Sandro Bondi. Chiedete pure le mie dimissioni, ma non sarebbe un atto politicamente e moralmente giusto. Non solo non merito un tale trattamento, ma sarebbe a mio avviso un ulteriore segno di incattivimento della lotta politica in Italia. Per il titolare dei beni culturali sarebbero strumentali le richieste di sue dimissioni, non hanno nulla a che fare, dice, con Pompei. Richieste che l'opposizione rinnova perché il crollo mostra lo sfarinamento dell'Italia, secondo Veltroni, mentre Franceschini, sempre del PD, a chiedere al ministro di prendere atto che è la maggioranza a volere un gesto di responsabilità, altrimenti, preannuncia, dovremo portare in aula una mozione di sfiducia. Il riferimento è alla posizione dei finiani che con Granata ha proposto a Bondi di assumersi le sue pesantissime responsabilità politiche, responsabilità che Bondi però smentisce di avere e che sarebbero imputabili, a suo dire, alla gestione e non ai tagli a Pompei, snocciolando cifre su bilanci positivi che registrano più 25 milioni nel 2009. Sentiamolo. Questi dati, onorevoli colleghi, dimostrano che il problema vero non è la mancanza di fondi. Il problema vero è quello di assicurare una gestione capace di utilizzare al meglio le risorse esistenti. E dopo il commissariamento e dopo la fase dei sovrintendenti ad interim, ora un gruppo di esperti prenderà in gestione l'area archeologica con una fondazione. Nello specifico del caso della Scuola dei Gladiatori, il crollo, secondo i primi risultati riferiti in aula, sarebbe imputabile alla pressione del terrapieno colmo d'acqua. Ed è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. E paradosso vuole che il Sud utilizzi solo il 5% dei fondi europei per i beni culturali. Lo dice l'ultimo monitoraggio sulla spesa delle regioni meridionali per le risorse culturali, appunto. Questo invece è il destino dei nuovi fondi strutturali per le regioni europee. A Bruxelles il dibattito è da oggi aperto e nel palio ci sono decine di miliardi di cui beneficeranno anche le regioni italiane. Calcio d'inizio per il futuro della politica dei fondi strutturali europei. Oggi la Commissione lancia ufficialmente il dibattito, mettendo in chiaro alcuni punti. Dal 2014 la politica regionale dovrà garantire un uso dei fondi più efficiente, ponendo sia condizioni più severe, sia incentivi per chi li utilizza. L'idea è quella di un contratto tra Stati membri e Commissione che includa obiettivi e risultati misurabili e che comporti anche delle penali. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, i finanziamenti destinati alla politica regionale potrebbero venire sospesi. Altre novità riguardano il cofinanziamento comunitario dei progetti, da rimodulare secondo il PIL pro capite dei territori interessati, e il collegamento dei fondi a politiche di respiro europeo, quali innovazione e ambiente. Il sistema prevederebbe pure incentivi per i progetti giudicati migliori. L'idea a Bruxelles è dunque quella di non tagliare i finanziamenti alle regioni, ma di cambiare le modalità di erogazione, introducendo una nuova categoria intermedia che includa le regioni in uscita dall'ex obiettivo 1. Parliamo per l'Italia di Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna. Secondo dati forniti a Bruxelles, tra il 2000 e il 2006 i fondi strutturali hanno creato quasi 1,5 milioni di posti di lavoro in Europa. Nel periodo 2007-2013 le regioni italiane riceveranno quasi 29 miliardi in fondi. Siamo il terzo paese beneficiario dopo Polonia e Spagna. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quasi 14 milioni di adulti l'hanno provata, 4 milioni l'hanno consumata nell'ultimo anno. Stiamo parlando della cocaina, che in un anno ha visto raddoppiare i decessi. È quanto emerge nella relazione 2010 sull'evoluzione del fenomeno della droga in Europa, presentata oggi dall'Agenzia Europea delle Droghe. Si riferisce a dati del 2008. L'Italia resta ai vertici delle classifiche per consumo dopo Spagna e Regno Unito. E un tossicodipendente ogni 5 ha almeno 40 anni. Siamo in diretta con Riccardo Gatti, medico direttore scientifico dell'Osservatorio Dipendenze della Lombardia. Buongiorno Gatti. Buongiorno. Con cui volevamo commentare questi dati che insomma sono brutti, diciamocelo. Lei è stupito di questi dati intanto? No, non sono stupito, perché in realtà questi fenomeni hanno un continuo che è stato costruito in anni, quindi hanno una loro tendenza, e per anni la situazione, per esempio, di diffusione della cocaina ha continuato a crescere e ancora sta crescendo. Devo dire che noi incominciamo a vedere qualche segnale, diciamo così, di speranza, cioè probabilmente la crescita della cocaina sta flettendo nella crescita, che non significa che non crescerà ancora, ma crescerà cresce di ma meno. Anche perché sta finendo una specie di periodo di uso di droghe come sostanza dopante, ne sta incominciando un altro, però non so se il prossimo periodo sarà migliore del precedente. Lo stesso ministro Giovanardi, presentando questi dati, ha detto che in Italia cala comunque il consumo di droghe. Dunque, all'interno di questi dati ci sono degli spiragli positivi? Ci sono degli spiragli positivi, ma anche dei segnali di preoccupazione, nel senso che io ho la sensazione che quello che colgono i dati ufficiali è la vigilia di un cambiamento. Essenzialmente forse si userà anche meno droga nei prossimi anni, ma la si userà in un modo diverso, passato il periodo della droga diversità che ha caratterizzato la devianza, l'emarginazione, la droga della male, che sembra una storia vecchia ma ancora presente ampiamente anche nel nostro paese, passata la droga della new economy e quindi la droga come dopante, la cocaina come doping, ma anche le droghe del sabato sera, Ci si sta rivolgendo verso un modo di usare droghe che è vivo normalmente, poi arriva il giorno in cui mi spacco praticamente con una sostanza che mi altera profondamente, ma posso anche mischiare sostanze e posso anche metterci dentro l'alcol e poi il giorno dopo riprendo la mia vita assolutamente normale. Un ultimo commento invece sull'età. Dicevamo, un tossicodipendente ogni 5 ha almeno 40 anni. Cosa significa? Significa che la droga ormai da tempo, direi, non è più un problema, è una questione soltanto giovanile. Se pensiamo a diverse droghe, se pensiamo anche a diversi farmaci, ormai questi abusi incominciano a interessare trasversalmente tutta la popolazione. Grazie Riccardo Gatti. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della nuova emergenza maltempo al sud, centinaia, 500 circa gli evacuati nel Salernitano e a Roma intanto si discute, si cercano i soldi da destinare al Veneto. Il crollo di Pompei, l'opposizione chiede le dimissioni di Bondi che si difende, non merito di andarmene. Raddoppiano i morti per cocaina in Europa, l'Italia resta in testa alla classifica, un consumatore su 4 ha più di 40 anni. E ripartiamo parlando di donne che in 3 casi su 4 hanno tutto sulle loro spalle il carico dei lavori familiari. I dati sono dell'Istat e sono stati diffusi questa mattina a Milano alla Conferenza Nazionale della Famiglia, giunta alla sua giornata conclusiva. Nell'attesa che la disuguaglianza tra uomini e donne si affievolisca, siamo qui a fare la cronaca di un dato annunciato. Si conclude amaramente dunque la Conferenza Nazionale della Famiglia. Le donne, soprattutto quelle del Sud Italia, abbandonate da un serio sistema di welfare, si caricano famiglia e casa e come lumache arrancano. Fenomeno che si amplifica nei casi in cui lei non lavora. Va meglio al nord, dove il carico del lavoro familiare va un po' sotto il 70%. Nelle coppie in cui lei lavora e laureata e non ci sono figli, è tutta un'altra storia. Il dato positivo è che rispetto al 2002 le cose stanno migliorando. C'è un buon 10% di uomini che da allora ha imparato a far parte della gestione della famiglia e forse pesa su questo miglioramento il fatto che in alcune regioni italiane si sono messe in atto strategie di welfare intese realmente a sostenere le famiglie. Il dato più interessante di tutti è che se la donna ha figli e lavora, il marito o compagno che sia si fa più presente. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora da Istat, questo invece sulla produzione industriale. Dopo il battito d'ali in agosto, la produzione industriale a settembre è caduta, meno 2,1% in un mese. Brusca frenata anche nel confronto rispetto a un anno prima, si passa dal più 12,8% di agosto al più 4,1% di settembre. In 9 mesi, dice l'Istat, la produzione industriale è cresciuta del 6%. Sentiamo l'economista Luigi Paganetto. Nasce poi dalla crisi che abbiamo attraversato e che ancora non abbiamo abbandonato. Dopo essere stati per quasi 2 anni in recessione, è chiaro che le imprese, quando hanno visto uno spiraglio, hanno cominciato a ricostituire le scorte che avevano completamente utilizzato. Quindi questo dà uno sprint alla produzione, ma è uno sprint temporaneo. L'andamento della produzione industriale a suo avviso è coerente con la crescita del PIL attesa all'1,2% nel 2010 dal governo? Ma io ho l'impressione che potremmo anche trovarci con la sorpresa di qualche revisione al ribasso. Giovanni Bracco da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora il nostro appuntamento con l'Italia che riparte. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Il 2009 su 2008 ha visto un calo del circa 20%. Il 2010 sul 2009, settembre su settembre, siamo già al circa più 10%. A parlare è Alessio Barbazza, titolare di Magazzini Generali della Brianza, azienda della provincia di Monza, che offre soluzioni logistiche alle piccole e medie imprese che operano sui mercati internazionali. Il recupero nel 2010 è stato realizzato grazie ad un ribaltamento del modello di business, come spiega Barbazza. Prima noi fornivamo servizi basic di piattaforma doganale per le case di spedizione, DHL, Schenker, aziende di questo tipo. Ci siamo invece poi focalizzati su quello che noi chiamiamo import logistics, cioè servizi a valore aggiunto per le piccole e medie imprese che fanno import-export. Questo vuol dire che nelle nostre strutture, nei nostri magazzini, è possibile detenere della merce proveniente dall'estero, per esempio, stoccarla senza pagare i dazi e senza pagare l'IVA, quindi i cosiddetti diritti doganali, per poi andarla a distribuire in Italia o sul territorio europeo o anche all'estero con tutte le facilitazioni del caso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella notte italiana si aprirà il G20 a Seul. Sotto i riflettori la Cina, la moneta cinese sempre più forte. A giudicare dalle premesse della vigilia sono modeste le possibilità di metter fine con il vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 che inizia oggi a Seul a quella che è stata battezzata come la guerra delle valute. La stessa presidenza coreana ha riconosciuto che a un certo punto l'atmosfera dei lavori preparatori si era così surriscaldata che è stato deciso di aprire le porte della stanza per cambiare l'aria e non solo in senso letterale. Ai leader in arrivo nella capitale coreana toccherà un compito di ricocitura che si prospetta tutt'altro che facile. Del resto le ultime settimane sono trascorse fra le accuse reciproche. A lungo sul banco degli imputati era seduta la Cina, colpevole di non lasciare rivalutare il cambio e quindi di spingere in modo indebito le proprie esportazioni. Poi 3 settimane fa, sempre qui in Corea, i ministri finanziari e i governatori del G20 si erano accordati per evitare svalutazioni competitive. Ma le polemiche si sono riaccese quando gli Stati Uniti hanno deciso di allentare la politica monetaria facendo scivolare il dollaro. A questo punto Washington è diventata il primo bersaglio delle critiche non solo cinesi ma anche di paesi avanzati come Germania e Giappone e di economie emergenti come il Brasile. La ricerca di un compromesso passerà probabilmente dall'assegnazione al Fondo Monetario del ruolo di vigile sugli squilibri globali, con il compito di suonare il fischietto quando i disavanzi o i surplus diventino eccessivi. Ma ci si interroga ancora prima che il vertice cominci su quale possa essere l'efficacia di un vigile che non ha la possibilità di dare multe ai trasgressori. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Seul. Almeno 6 morti e 33 feriti in una serie di attentati contro alcune abitazioni di cristiani a Baghdad, in Iraq. Gli attacchi di oggi avvengono 10 giorni dopo il massacro nella cattedrale siro-cattolica di Baghdad, costato la vita a 46 civili. E il Vaticano, per bocca del segretario di Stato Tarcisio Bertone, si augura che le autorità irachene prendano in seria considerazione il problema della difesa dei cristiani in Iraq. Cambiamo decisamente argomento perché parliamo di videogiochi. Esce oggi anche in Italia un nuovo accessorio destinato a rivoluzionare il modo in cui si gioca. Sentiamo di cosa si tratta. Si chiama Kinect con la K ed è un accessorio destinato alla Xbox della Microsoft. Si posiziona sotto la TV e grazie alla videocamera, al sensore di profondità e ad un microfono per la prima volta sarà possibile comandare un videogioco con il solo movimento del corpo, con la voce. Microsoft punta così ad allargare il pubblico dei videogiochi, che diventano più intuitivi e promettono di essere un nuovo strumento di aggregazione per famiglie e amici. L'azienda ci crede e punta a vendere 5 milioni di pezzi quest'anno e visto quello che è successo nei giorni scorsi negli Stati Uniti, l'obiettivo potrebbe essere centrato. Pezzi esauriti già in prevendita nei principali negozi online. Del resto, che i consumatori siano contenti di abbandonare il joystick si era capito nel 2006, quando Nintendo presentò la Wii con il suo comando senza fili, un sistema adottato di recente anche da Sony per la sua PlayStation 3. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I cinema diventano sempre più luoghi per vedere altro. Questa sera UC Cinema proietta in alcuni multisala un concerto di Bon Jovi e lunedì toccherà i Take That con una caccia ai biglietti solo in rete. Sonia Fois, direttore marketing UC Cinema. abbiamo iniziato a testare eventi diversi che non sono soltanto concerti ma anche musical, opere liriche, eventi sportivi. Effettivamente abbiamo visto che il riscontro maggiore per il target che frequenta il multisala, il multiplex, è proprio concentrato su quelli che sono i concerti di musica pop, rock e in particolare metal. E fra questi stiamo scegliendo sempre di più quelli che sono i gruppi, le band o addirittura il Vasco Rossi della situazione o Ligabue della situazione che abbiamo programmato altrettanto quest'anno, perché sono quelli che riempiono veramente la sala. Brutte notizie, siamo allo sport per le italiane della pallavolo. Cuba ha infatti messo fine ai sogni di gloria dell'Italia eliminando le azzurre dalla corsa alle semifinali dei mondiali. A Nagoya in Giappone le ragazze del CT Massimo Barbolini si sono arrese per 2-3 alle caraibiche. Nel girone dell'azzurra il Brasile è rimasto imbattuto superando per 3-1 gli Stati Uniti. Questo invece è il calcio. L'ex juventino Diego è venuto alle mani con un compagno di squadra durante l'allenamento del Wolfsburg, squadra della Bundesliga in cui milita in questa stagione. Il brasiliano si è beccato un pugno da Ritter, che si è però scusato. Pochi minuti dopo Diego ha ripagato il tedesco con la stessa moneta. I due hanno iniziato a picchiarsi finché non sono stati divisi. Il Wolfsburg ha annunciato che non prenderà alcun provvedimento. E stasera torna il campionato di Serie A, qui in Italia naturalmente, con molte trappole sulla strada delle big. In quell'ideale Giro d'Italia che è un campionato, l'undicesima giornata, turno infrasettimanale, sembra la classica tappa di trasferimento, buona per dimenticare le scorie del derby capitolino e traghettare il torneo verso un fine settimana insaporito da Juventus-Roma e dal gustoso Inter-Milan di domenica sera. Ma proprio per questo la tappa intermedia può essere piena di tranelli per le big. Come ben chiarisce Max Allegri, col suo Milan, primo inseguitore della Lazio capolista, che ospita l'insidioso Palermo. Tutte le partite che abbiamo giocato finora è quella più importante, perché credo che è la partita che precede il derby. Da parte loro i biancocelesti vanno a Cesena per dimostrare, dopo il discusso KO nel derby, che la loro non è una fuga bidone. È di Reia. È chiaro che noi bisogna guardare avanti, il derby è chiuso, abbiamo l'opportunità di ripartire. Nel gruppo degli inseguitori la trasferta di Lecce è una cima coppi per l'Inter falcidiata dagli infortuni. Juventus e Napoli rischiano di ritrovarsi con le ruote sgonfie a Brescia e Cagliari. Poi occhio a Roma-Fiorentina. E all'orizzonte c'è ancora il rischio dello sciopero dei calciatori, dopo il no della Lega Calcio alla mediazione della Federcalcio nella trattativa con il sindacato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un saluto da Maria Piera Ceci, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Dell'Osservatorio Dipendenze della Lombardia.